Why, digitale per la crescita. 8 e 9 ottobre a Capri. Non potete mancare. Maggiori informazioni sul sito ey.com. You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Take a little. Di Valentina Furlanetto. That's the glory of love. Buonasera, bentornati a questa nuova edizione di Indovina chi viene a cena, la trasmissione di Radio 24 che si occupa di identità attraverso la cucina, la migrazione, le ricette, i nuovi italiani, gli italiani che hanno radici da qualche altra parte. Stiamo sentendo, in sottofondo la state sentendo, no? Questa musica. È una musica che potete trovare facilmente su YouTube, chiaramente è un filmato amatoriale, quindi non si sente molto bene, ma è veramente molto intenso questo video in cui un pianista che si chiama Ahmad Ayman suona nel campo di Yarmouk, il più grande campo profughi palestinese a Damasco. Suona in mezzo alle rovine, una città in parte distrutta, e prima della guerra questo giovane costruiva e riparava strumenti, ora suona come volontario per alleviare il dolore della gente nel suo quartiere. Stasera parliamo di Siria, quindi, con una giornalista e scrittrice italo-siriana, Susan Davut. Buonasera, bentornata. Buonasera, buonasera agli ascoltatori. Grazie Susan di essere tornata a Indovina chi viene a cena. Ci eravamo sentiti all'indomani della pubblicazione del tuo libro Come vuoi morire, Castelvecchi Editore, un libro molto bello che consiglio a tutti di leggere per capire qualcosa di più di quello che è accaduto in Siria e di riflesso di quello che sta accadendo in Europa. Tu sei stata rapita, no Susan, ad aprile 2013, e hai raccontato questa esperienza in questo libro. Tu hai avuto modo di lavorare nel territorio, sei nata ad Aleppo, poi però sei cresciuta in Italia. Ormai è da tanti anni, ormai 4 anni interi che la Siria è lacerata da questo conflitto, di cui non si intravede tra l'altro la fine, travolta da questa catastrofe umanitaria. Ne vediamo i riflessi anche in Italia. Io ho letto che tu hai scritto che più che la foto di quel bambino Aylan trovato sulla spiaggia, che assomigliava tanto ai nostri bambini, no? Che forse ci ha colpito per questo, ti sarebbe piaciuto che tutti condividessero sui social il video invece di quel bambino sempre siriano, un po' più grande, che diceva: fermate la guerra in Siria, non verremo più in Europa. Esatto. Questa è una posizione che io ho sempre avuto prima ancora che l'immagine drammatica del piccolo Aylan diventasse, come si dice, virale, ed era dovuta al fatto che sin dall'inizio del conflitto siriano le immagini dei bambini sono state strumentalizzate da chiunque, dal regime per mostrare che cosa facessero, diciamo, i cosiddetti terroristi, quelli che loro chiamano terroristi e che invece dal punto di vista di chi si oppone al regime siriano sono i ribelli o comunque sono le persone che combattevano per la liberazione della Siria da una dittatura che, ricordiamo, è in essere da più di 40 anni, passata di padre in figlio. E quindi c'erano queste immagini di bambini terribili, strumentalizzate, poi c'erano le immagini dei bambini strumentalizzate anche dagli jihadisti, quindi c'erano bambini armati con collane di proiettili. Ecco, io ho visto queste immagini dall'inizio della guerra, quindi sono 4 anni di immagini terribili che appunto vengono utilizzate da un lato e dall'altro, e poi c'è stato anche un utilizzo in alcuni casi inappropriato da parte delle organizzazioni internazionali caritatevoli o delle ONG, sempre delle immagini dei bambini dovevano appunto muovere a pietà per fare la raccolta fondi. Allora, ovvio che ci possono essere degli interessi legittimi da parte di ognuna di queste, diciamo così, categorie, di prendere una foto di un bambino e dire: questo è quello che fa il regime, questo è quello che fanno i terroristi, o questo è la destinazione per dei soldi che stiamo raccogliendo. Da un punto di vista personale ed etico e anche giornalistico, io trovo che sia assolutamente inadeguato utilizzare le immagini dei bambini, e questo lo pensavo prima ancora di diventare mamma, quindi su questo posso dire sono contenta di essere coerente, non mi sono fatta travolgere dall'emozione, anche se ovviamente quell'immagine a mio avviso è particolarmente stupefacente, perché non richiama l'immagine della violenza di una guerra, ma richiama un'atrocità più sottile, che è quella della morte in culla, che è una cosa che evidentemente ci tocca in modo più da vicino, ci tocca più da vicino perché i nostri figli qui in Occidente non muoiono di guerra, ma possono purtroppo morire per cause naturali. La Siria si sta svuotando delle sue persone e per tanti Aylan purtroppo morti, ce ne sono tanti vivi. Bisognerebbe secondo te intervenire militarmente? Gli interventi militari che andavano fatti mirati e soprattutto finalizzati a zone cuscinetto, a corridoi umanitari, a mio avviso andavano fatti 2 anni fa, quando c'erano tutte le condizioni per poter andare a recuperare una situazione che era solo all'inizio. Oggi come oggi abbiamo visto che tutte le operazioni militari che vengono fatte in Siria e in Iraq hanno un respiro molto corto e che non stanno portando dei risultati. Per cui oggi è veramente difficile pensare ad una soluzione militare. Credo che purtroppo allo stato attuale bisogna semplicemente prendere atto della situazione e quello che si può fare sono dei mini accordi regionali, territoriali, delle mini tregue, sollevazioni, no? Cioè bisogna sollevare la pena delle persone almeno dal punto di vista temporaneo, cioè ci sono dei quartieri assediati, ci sono delle zone bombardate che hanno bisogno di essere pacificate, hanno bisogno che la vita rinizi. E questo perché quella siriana sarà una guerra molto lunga e durerà a lungo, purtroppo, come ci insegna l'esperienza libanese della guerra civile che è durata 15 anni. E purtroppo in Siria c'è la stessa, si è venuta a ricreare la stessa ricetta esplosiva, cioè interessi regionali, interessi mondiali che si concentrano in un territorio molto difficile, dove è facile anche nascondersi, dove c'è parte della popolazione che sostiene questa o quella fazione, perché comunque c'è una varietà etnico-religiosa composita che appunto porta a parcellizzare e a moltiplicare questo conflitto, per cui purtroppo appunto vedendo le cose in modo realistico e vedendo la situazione nel lungo periodo, piuttosto che un intervento militare bisognerebbe iniziare a pacificare la Siria zona per zona. Tu, Susan, lo dicevamo all'inizio, sei nata in Siria, sei venuta in Italia all'età di 3 anni, quindi sei cresciuta in Italia, sei tornata in Siria da adulta e hai trovato un paese che ti ha affascinato molto, no? Sì. Quando penso alla Siria, io non penso alla Siria in guerra, tuttora penso alla Siria dei miei affetti, dei miei ricordi. E ce la racconti anche in questo libro, sì, che hai pubblicato, della sua cucina, degli odori, dei parenti, del fascino medio orientale che avevano questi posti, che hanno questi posti per te. Cosa resta adesso di quei posti? Ma vediamo la distruzione di pezzi di Siria tutti i giorni sotto i nostri occhi tramite le immagini che ci arrivano. Per cui basta pensare alla distruzione di Palmira, che ovviamente chi è stato in Siria prova dolore quasi fisico, no? Mentre le bombe tirano giù, l'esplosivo tira giù colonne di quella città romana bellissima, patrimonio dell'UNESCO, ci sentiamo tutti un po' più impoveriti. di quella Siria resta ancora, c'è molto ancora da conservare, c'è molto ancora da, da tenere, e c'è la Siria della, c'è la Siria islamica, se così vogliamo dire, ci sono le moschee più, tra le moschee più belle del, del Medio Oriente, basta pensare alla, alla moschea di Damasco, ecco, l'idea che la guerra possa arrivare anche lì, come è arrivata all'interno della moschea di Aleppo, questo fa, fa male, fa particolarmente male. Ecco, pensiamo ad esempio che purtroppo la moschea di Damasco, l'antica moschea degli Omayyadi, potrebbe essere un target per gli estremisti del, dell'ISIS, perché all'interno si dice che è conservata la testa di Giovanni Battista, e per cui il fatto stesso che sia luogo di incontro di diverse religioni fa sì che per chi interpreta l'Islam in modo sbagliato, come appunto gli estremisti dell'ISIS, quello sia un luogo da combattere e non da rispettare. Ecco, io credo che ad esempio la moschea degli Omayyadi di Damasco è una delle meraviglie del mondo, è uno dei posti più belli, è quella la Siria che mi ha lasciato a bocca aperta, la Siria dei mosaici d'oro, di smeraldi e lapislazzuli, è la Siria dei tappeti soffici. Adesso ci fermiamo brevemente, torniamo subito a parlare di questo e di altro con te fra pochissimo. Radio24.it è sempre con te, anche in viaggio. Consulta la mappa del traffico aggiornata in tempo reale. Potrai conoscere la viabilità del luogo in cui ti trovi e avere tutte le info su code, cantieri e altre criticità. Clicca su Mappa e scopri il nuovo servizio su radio24.it. Radio 24. La passione si sente anche in viaggio. You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Forse non si comprende bene, ma dicono Bashar vattene via. Questa era una delle canzoni durante la primavera araba che aveva infiammato la folla. L'autore era chiamato l'usignolo della rivoluzione. Tra l'altro il suo corpo è stato trovato senza vita in un fiume. Secondo alcune testimonianze sarebbe stato sequestrato e ucciso da uomini dell'esercito siriano. Era il 2011, insomma, quando accadevano queste cose, quando vedevamo tra l'altro, Susan, no, queste primavere arabe incendiare le folle anche pacificamente, che si ribellavano a dittature che, come tu raccontavi, continuano da generazioni, in questo caso quella di Assad. Sentiamo un attimo un passaggio di un'intervista che è stata data pochissimi giorni fa a dei giornalisti russi, proprio dal presidente siriano al-Assad. Regarding the refugee crisis, I would say now that the Western dealing and the Western propaganda recently, during the last week, mainly during the last week, regardless of the accusation that those refugees are fleeing. State sentendo, no? Dice Assad, questi rifugiati hanno lasciato la Siria principalmente a causa del terrorismo. L'Occidente piange per loro, ma sostiene i terroristi dall'inizio della crisi, quando si diceva che era una rivolta pacifica. So many people will leave because of the terrorism and because they want to earn their living somewhere. Smettete, dice, di sostenere i terroristi, questo dice all'Occidente, altrimenti non si risolverà neppure la questione dei rifugiati. They will have more refugees. So it's not about Europe didn't accept them or embrace them as refugees. It's about not dealing with the cause. Stop, if you are worried about them, stop supporting terrorists. Allora, l'avete sentito, no? Noi l'abbiamo tradotto velocemente. Susan, l'hai letta anche tu, l'hai sentita anche tu questa intervista che è stata tradotta, è stata pubblicata da alcuni giornali in Italia. Che cosa ne pensi? Penso che sono comunque parole dette da parte di un capo di Stato o di un dittatore che non si fa nessuno scrupolo a lanciare barili bomba su palazzi dove abitano famiglie, quindi donne, bambini, civili, e questi sono i profughi che io ho intervistato per anni e che fuggivano appunto da questo genere di bombardamenti, non certo dall'ISIS né tantomeno da parte di altre forze ribelli e che hanno costituito il numero principale di fughe, ad esempio verso il Libano. In Libano, ricordiamoci, sono più di 1 milione di profughi siriani. Questi numeri altissimi in Turchia, e lì il sud della Turchia è pieno di profughi che fuggono dalla zona di Idlib, nella zona appunto nord-occidentale della Siria, che è stata presa di mira. Non dimentichiamo Homs, non dimentichiamo Homs. Abbiamo riempito giornali e cronache per 2 anni su la battaglia di Homs, poi Homs è stata recuperata dal regime, ma che cos'è Homs? Homs è una città fantasma dove appunto centinaia di migliaia di persone sono fuggite e decine di migliaia di persone sono morte. La realtà è che la maggior parte dei profughi fuggono dalle bombe del regime. Detto questo, ovviamente la situazione dell'ISIS non ha fatto che aumentare e comprimere ancora di più i profughi dentro situazioni e campi in cui non c'era già spazio prima e c'è ancora meno spazio oggi. Devo dire che anch'io, nelle testimonianze che ho raccolto in Giordania, nei campi profughi dove appunto erano ospitati, come tu ricordavi, in Libano e in Turchia, migliaia, milioni di persone siriane fuggite, anche loro mi dicevano le barrel bombs, il regime che bombardava, fuggivano più da quello che dall'ISIS, che sicuramente è un problema, ha preso piede in maniera incredibile in questi ultimi anni, e però insomma sono due problemi, no? Sì, esatto. Contemporanei. Sì, è una morsa. Invece i rifugiati, diciamo che l'Europa intera è stata travolta dal problema, quando prima invece soltanto la Grecia e l'Italia avevano a che fare con la fuga, no, di persone dal Nord Africa invece che dalla Siria. Che impressione hai adesso di quello che sta avvenendo in Germania, in Ungheria, nelle ultime ore anche in Croazia? L'impressione di un mondo disordinato, che non è più, non rispecchia più quello a cui eravamo abituati, no? Di un Occidente ordinato e di un mondo arabo in subbuglio. Adesso il disordine ovviamente non può che espandersi e non può che contagiare, no? Quelle aree che ritenevamo impenetrabili, inaccessibili. Non esiste al mondo un'area appunto inaccessibile o impenetrabile, tutto è raggiungibile dalla forza stessa dell'essere umano, che è quella appunto il desiderio del miglioramento. E quindi vedo che non posso che constatare una cosa ovvia, cioè contrastare questo istinto umano al miglioramento è impossibile. È ovvio che reagiscono diversamente paesi come l'Ungheria, che è alle prese con una situazione economica difficile, e paesi come la Germania, che invece probabilmente, al di là della generosità e del volto umano, ha bisogno di manodopera specializzata, che ad esempio è quella siriana. Cioè, non dimentichiamo che appunto la classe media siriana, anche la classe media urbana, è fatta di persone come ad esempio nella città di Aleppo, che si dedicavano all'industria leggera, per cui cioè, anche questo aspetto probabilmente è importante, no? Se vogliamo leggere tra le righe. Ecco, io quando mi sono occupata di migranti, ovviamente non potevo non farmi una semplicissima domanda: perché a queste persone non vengono concessi i visti? Perché queste persone non possono viaggiare su un aereo? I loro viaggi costano tantissimo, costano 10-15 mila euro a famiglia. Ovvio che sarebbe costato molto di meno prendere un volo Oltretutto soldi di cui si approfittano, esatto, organizzazioni internazionali. Umanitari, ovviamente, non stiamo parlando dell'aprire le frontiere a tutti quanti, perché ovviamente porterebbe a dei disordini. Corridoi umanitari, insomma. Esatto. quando sei stata rapita nel 2013, non, ancora l'ISIS non esisteva, no? C'erano dei terroristi, però non c'era ancora, però se ne sentiva un po' il nascere, no? Tu lo percepivi? Ma purtroppo abbiamo avuto la fortuna di assistere alla nascita dello Stato Islamico, perché in quei giorni del nostro rapimento il nostro gruppo, che si chiamava Jabhat al-Nusra, ci annunciò che si scioglieva in un nuovo gruppo che si chiamava Stato Islamico dell'Iraq e della Siria. E ovviamente quando ho preso questa notizia, capii che la situazione era particolarmente grave, anche perché rischiavamo noi ostaggi di essere spostati anche geograficamente dalla Siria all'Iraq, e questo ovviamente avrebbe complicato molto di più il lavoro di chi stava negoziando per la nostra liberazione. Rispetto a quei giorni, la tua vita è cambiata totalmente, ne hai accennato prima, sei anche diventata mamma e chiaramente è superato quel momento. Ma cosa ti ricordi a distanza ormai di anni? Qual è la cosa che ti è rimasta più dentro e cosa, ad esempio, se sogni quando nei tuoi sogni interviene questo ricordo? Si palesa sotto forma di insicurezza, incapacità di controllo. Nei sogni diventa un ritrovarmi in balia di un viaggio che non dipende da me, ad esempio un aereo destinazione Mali. Un'altra volta ho sognato che mi trovavo in un convoglio per andare in Somalia ed ero già incinta e pensavo: no, ma non posso andare in Somalia ora, dovrei stare in un posto riparato. Ecco, non ho sognato il rapimento reale, però sogno situazioni in cui io non ho il controllo. E la tua, diciamo così, carceriera, una delle, la donna Miriam, che ha una figura forte nel tuo libro, no? Hai più saputo niente di lei? Ogni tanto pensi a lei, a quello che ne è stato di lei, perché non lo sappiamo, no? Ma mi è capitato di pensare a lei quando aspettavo mia figlia e pensavo che sicuramente anche lei era diventata mamma, insomma ne ero sicura, perché comunque mi aveva detto che voleva avere un bambino e insomma penso che mi sono sentita, ecco, che stava diventando mamma anche lei, e ovviamente con un enorme dispiacere, perché pensavo a quanto appunto la sua famiglia fosse esposta a rischi, al di là della loro deriva ideologica, ma anche proprio rischi fisici di vivere costantemente in guerra, e questa guerra che per loro è uno stato normale. E io credo che molto verosimilmente dalla zona in cui siamo stati rapiti lei e il gruppo il battaglione del marito jihadista si sia spostato verso Raqqa, e da lì sinceramente non posso recuperare notizie, però ecco, quello che io mi auguro è che ci sia tempo nell'arco della sua vita, perché appunto se ancora in vita di cambiare idea, ecco, questo è quello che io penso e mi auguro. Proprio perché nel tuo libro c'è un'attenzione femminile al tema, alla psicologia femminile, alle necessità anche fisiche e banali della quotidianità, e quindi anche questo rapporto con questa carceriera è un rapporto tra donne. Tu hai pensato in questi mesi, in questi anni, al perché alcune donne, ad esempio c'è stato questo caso di questa ragazza italiana che ha seguito, no, il marito ed è andata, ha fatto una scelta radicale andando a seguirlo su questa strada. Quali sono le motivazioni secondo te che possono spingere una donna, una ragazza anche europea a intraprendere un percorso di questo tipo? Ma c'è questo vengono spinte e attratte da una vita semplificata al massimo, no? Questa semplificazione che porta ad avere sempre risposte certe. Se pensiamo che la nostra società così sofisticata, così complessa, ci porta a metterci continuamente in discussione a cercare la, non tanto la felicità, ma quanto la soddisfazione data da miglioramento continuo, il miglioramento è dato da uno sforzo che all'inizio è lo studio, poi è la ricerca di un buon lavoro, poi la ricerca di un buono stipendio, poi la ricerca di insomma una famiglia che riesca a conciliare il successo economico, sociale, lavorativo con quello personale. Ecco, io penso che a noi donne occidentali viene chiesto un po' tanto, no? Forse a volte troppo, e molte neo jihadiste o comunque convertite o comunque ragazze adolescenti o post adolescenti che vengono attratte dall'ISIS, comunque dall'idea di vivere in uno stato islamico dove è tutto, diciamo tra virgolette, ordinato, no? Cioè esiste il bianco e il nero, se segui le regole vai in paradiso, l'essere schiava e principessa del proprio marito, ovviamente tutte queste cose creano un'aspettativa verso, poi anche il fatto di figurarsi, di immaginarsi un mondo come viene descritto da loro, che poi ovviamente è completamente diverso e misero, perché si va in una zona di guerra, si ritrovano senza acqua, senza elettricità, senza poter comunicare minimamente con le famiglie, e quindi insomma si ritrovano veramente imprigionate. Una delle prerogative della cucina siriana è sicuramente il fatto di trovarsi di fronte a un popolo estremamente conviviale, cosa che si riflette nel fatto che i pasti si trasformano in qualcosa di più rispetto alla sola necessità di nutrirsi. La gastronomia siriana è influenzata da diversi popoli, ma in particolare dalla Francia. Tra gli antipasti freddi sono molto buoni i mutabal, crema di melanzane, l'hummus, crema di ceci, il mammara, pasticcio di noci e peperoni, il fattouche, insalata con pane tostato, tra quelli caldi il fataye, fagottini di pasta ripieni di carne, formaggio o spinaci, il sauda, fegato stufato in succo di melograno, e l'isanat, cervella e lingua d'agnello. Si prosegue con kebab, spiedini di carne tritata, kafta, carne tritata al forno con patate e pomodori, e il sukaf, spezzatino d'agnello grigliato. Fanno da contorno zucchine ripiene o melanzane in salsa di pomodoro. Il pasto si conclude con i dolci. Fra i più tipici, baklava, pasta sfoglia ripiena di noci, mandorle o pistacchi, e muallabiyeh, budini di riso aromatizzato con acqua di rose e pistacchi. Grazie a Susan Dabbots per questa testimonianza. Grazie a voi. Grazie a tutti voi per l'ascolto, in regia Carmelo Lauricella. Io vi aspetto sabato prossimo con Indovina chi viene a cena. Buona serata a tutti da Valentina Furlanetto. You've got to give a little. That's the glory of